Pathfinder Campus. Podcast italiano, il play di Pathfinder. Vai, allora, eravamo sulla nave e praticamente ci hanno dato i compiti, cioè i nostri, le nostre missioni. Allora, il corvo era di vedetta insieme ad un non mi ricordo se era un umano o un nano. Era un umano. Un umano. Quello un po' effeminato. Sì, quello scassacazzo. Sì, quello che ma veramente non l'aveva finito. C'è un tizio sì, che era quello che tirava sempre le palle, no, che parlava un po'. Però si ciccia. Esatto. Sì, allora sì. Si fregia di essere una, un occhio di lince, ma in realtà non riconosce la esatto, barca perché... a 300 esatto. km. Lui doveva contare picchiare. Ciò che c'era nella stiva con l'aiuto del corvo. E tu dovevi, non mi ricordo se tipo dovevi leggere macchinista, le macchiniste, io sono perché era, e poi vabbè, anche se non ti ricordi quelli di NPC non fa niente. Io invece con un umano ero come con un umano ero come Mozza, e mi sono molto arrabbiata per ah, Mozza, tanto è vero. Di averti, cioè tanto ti ho chiesto se potevo essere una la timoniera, si dice. Ah sì, però ok, però ti ho detto no, no, già era già l'altro in quello che stava. Dopo niente, svolgiamo le nostre mansioni e c'è sempre, diciamo, il nostro capo rimane più che altro sempre come si chiama, quello che voleva prendere il potere. Jung Guys. L'altra volta è scritto in uno. Il monaco potentissimo. Il monaco potentissimo, esatto. Monaco con katana. Insomma, andiamo a letto, andiamo a dormire. E che figo! L'Halfling, che era di vedetta, praticamente corre a svegliarci e corre a svegliare anche lui perché accade una cosa strana. Sì, non è detto più. E non mi ricordo esattamente che cosa stia. Era un disegno sul. Ah, sul sì, col ponte. Sangue. No, vabbè, sì, tipo vicino. Vernice rossa. Che tu hai notato non esserci nella stanza. Esatto, tu hai notato non esserci. Faccio l'intervento più intelligente di tutta la tua vita. No, è vero, ha chiesto. L'Halfling ti ha chiesto. Ma c'era. Abbiamo della vernice rossa a bordo, e tu sei stato zitto ed è arrivato il fantasma. Sembrava strano. Okay. E praticamente è arrivato il pirata. Che quindi no, avevamo già quello che era morto, cioè. Quello che era morto, che avevamo, che avevamo incontrato con Simone, quello che sì, era. Sì, sì, sì, pirata. Subito. Solo che non era solo, esatto. Aveva tanti piccoli amici che ci hanno praticamente. No. No. Però erano parecchi. Controllava erano, dei bright. Potevano essere tipo 8. Erano 8. E praticamente abbiamo dovuto tirare l'iniziativa perché ci siamo messi a combattere. Esatto. La battaglia è stata parecchio pesante. Tanto quattro che lunghe ore. Il problema era. Il problema era entrare nel loro perimetro perché venivi paralizzato, comunque subivi. Rischiavi di morire. Esatto. Danni. C'era questa debole abilità che era palesemente di terze parti dell'amico di Danilo. Praticamente quando entravi entro il suo piccolo raggio di feet, che io ho ridotto a 30. Esatto, il 30 feet, ma che in realtà erano 60 per questi po' pazzi psicotici. Se fallivi un tiro salvezza che inizialmente era di 27, poi da Danilo stava unicamente abbassato a 20, no, forse sì a 20, 19, praticamente eri paralizzato. E diciamo che l'avevo già abbassato prima della sessione, ma poi ho visto come era. La vedi ancora più abbassata. Più eri paralizzato, il che voleva dire che lui era lì a portata e ti sgozzava semplicemente. 27 a corsa. Perché lui stavamo per morire e lui è riuscito a provocare. Però comunque era tantissimo. Esatto, cioè. Praticamente io e lei siamo rimasti davanti a lui completamente helpless. Però per fortuna io avevo prima evocato degli angeli che sono venuti e ci hanno portati come dei in alto. Domanda, io potrei prendere le botte? Cioè, no, tu eri per terra esatto, a prendere le botte. Però le davi parecchio, questo io no, esatto, diciamo che hai fatto grosso del lavoro. Esatto. Perché col fatto che erano incorporei, avevano, cioè lui aveva soprattutto un'altra cia touch e quindi lei aveva parecchie difficoltà a colpirlo, perché lei è buona ma se trovavano con l'altra cia touch, diciamo che si sente il fatto che deve sottrarre un sacco di cose. Certo. Mentre normalmente no. Poi il problema Giorgio, è che non potevamo usare. In realtà lui anche lui ha fatto un bel po' del lavoro comunque. Giorgio fa un ranger? No, è un monaco arciere zen nano. Il problema è che non potevamo usare gli incantesimi. Che si chiama esatto, poi era svantaggiata perché

Al corvo faccio una C, che sei tu. Sì, che no, vado a sorprenderti se vuoi. Poi sono sempre messa a topo, sì, corvo, sì, ratto. Sì, tu che scegli sempre bestie antropomorfe. Te li sta portando sì. Grazie. Niente. E poi vediamo. Per farla E faccio una roba così. Giù. Sì, un attimo un bagno. Certo. Quale devo andare? Quello sulla scegli sinistra? Scegli tu assolutamente. È uguale? È uguale. Sei sì. Sicura? Sì. Per fare il barbaro faccio un punto. Tranquillo. Cosa? Cos'è che sono io? Un punto. Perché sono un punto? Perché è più facile disegnare. Io sono scusa. Tu sei queste tre lineette che sono una E. Ok. Va bene. Il punto perché è semplice come il barbaro. Scusa, giusto. Io c'è cioè, l'incantesimo di Fly, l'ho tirato prima dell'iniziativa, giusto? Certo, ok. Si può sbagliare anche a fare un bug, cosa pensi? E quindi adesso tocca a te. No, semplice, non da fare, nel senso... Come, da, come, concettualmente. Sì, sì, concettualmente. Come design, diciamo. Quattro punti sono bellissimi da barbaro. Ah. No, da fare non è facilissimo, cioè ci sono tutti i rage power da scegliere. Potrei... È facile, tipo, sai che ce n'era uno? Tipo il gaslinger è più facile, non dice niente. C'era un Rage Power che era abbastanza simpatico. Quello con. Sì, un po' un Tarmucci, però mi sembra giusto perché si sta avvicinando. Sì, cioè, sono più o meno una distanza recente. Quello con gli Energy. Io beh, direi che comincio con un'invocazione. Non fai Ace? Sì. Ah. Una cosa non preclude l'altra. Sì, tu fai sempre Ace prima, così poi sono tranquillo. Faccio Ace. Sodoma? E Sodoma fa Ace su tutti voi. Bravo, Corvetto. Ok, così sei tranquillo. Segnatevi sulle spunte. Ecco, bravo. Ciao signori, spuntiamo East, spunta East. E poi comincio a fare un'invocazione a mezz'aria. Sono in alto, giusto, sono in alto un po', no? Mi sono avvicinato in alto, cioè fuori portata da lui. Sì, non... sì, sì, sì. Cioè sono salito piano piano per arrivare. Sì, dovevate disporre voi, però non me lo dicevate, quindi mi sposto io. Cioè, sì, sì, dovunque va bene. Cioè così va bene, però basta che sono in alto. Poi... E finché sono così lontano, comincio l'invocazione. Lo vedrai. Sì, ma occhio che c'è un certo range, qua sono tanti quadretti alla fine. Non è close. Sì, è close. 1, 2, 3, 25, li faccio poi, li faccio camminare, non mi voglio avvicinare troppo. 10, 11, cioè, il fatto 12, che se mi avvicino 12, non posso 15 farlo. 15 quadretti. Cioè, se mi avvicino è un full round, no? Potrei usare... Beh, lui le può fare 12 più 5, quindi può comunque metterli a bassa. Allora facciamo così, usa... Però è in alto, quindi in realtà no. Quanto che sei in alto, quindi è un po' indietro. Fa che devi fare tipo qua. Beh, ma già che si rifà qua. Sono 25 stare. Più 5 per il livello. Sono un bel po'. 12 di livello, 12 quadretti più 5, che è 25. Esatto. 65. E quindi arrivano circa qua. Detto che sono 25 quadretti, no? Sì. Da qua, 12 più 5. Però sono 25, quindi allora niente, 26, 27, 29. 12 più 5, 18. Quindi più o meno qua li puoi fare, perché sei anche in alto tu. Infatti pensavo di farli circa lì e poi farli camminare. Sì, va bene. Circa, sì, circa qua, perché poi c'è 11 quadretti. Faccio così. Basta. Ok, loro c'ha tutti Ace. Mm-hmm. Io carico. Dai, scusate. Non so se ci arrivi. Non ci arrivi. Appunto, cosa faccio? Scusami, spreco... Ti avvicini a preparare l'azione. Ok. Meno che non arrivi un piccolino... O carico il piccolino, però mi sembra... O ti vuoi fare il quadro più velocitamente, puoi arrivare subito qua. Mm. Ci sta, così poi non hai... Ma che c'è una zanzara lì? Sì, no, ma si piace la pratica magari. Sì, ma cosa vado qua? Visto che farlo in linea retta. Sì, beh. Se non puoi proprio così. In effetti non devo lasciarmi un bel canale così per arrivare, ma fa niente. Vabbè, però ci sta. Io posso già fare... Loro sono large, suppongo. Posso già fare lungo lì, quelle cagate lì? No, hai fatto un'azione non completa in questa mossa. Ah, già, vedo che sono al palco. Sì, buono. Tu cosa fai? Mi sa che va prima lei, Mi sa che tu è uguale. Ah, ok. E io volevo fare Black Tentacle, però non so come... Non so se non sei a portata di avvicinarti prima. Beh, puoi invece... farlo. È una bella idea. Qua. Se no faccio Dimension Door. Ma puoi fare l'uno o l'altro, capito? Sì. Secondo me è un'ottima idea fare un Black Tentacle. Okay, però sono large, bisogna dire questo, sono large. Vabbè. Però se ci sta. Beh, magari anche se ne blocchi due. Io rompo il cazzo, capito? Quindi faccio quelli piccoli, cioè mi butto su quelli piccoli. Sì, sì, su quelli piccoli, certo. Ah, ti avvicini qua, immagino, tipo. Sì. Black puoi muoverti 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi per il Tentacles non vorrei dire una cagata, ma forse tipo 40 feet radius. Comunque può essere. Black, può essere, benissimo. Ma cioè dovrei arrivarci. Sì, in c'è il tantissimo di quarto. No, dico con Black Tentacles. Di quinto per il mago, di quarto per altri. No, di quarto per il mago. È che non mi ricordo come si fa, scusate che ho segnato. Ah no, scusate, 20 radius. Beh, 40 feet in tutto, mi ricordavo diverso. Ok, quindi cos'è il range? 100 feet più 10 feet per livello, okay. Easy. Ok, quello che avevi piazzato, dove vuoi praticamente? Cioè. 40 feet sono 8 quadri, cioè un diametro. Quindi in realtà ne prendo due. No, sono puoi prenderli tutti questi, penso. Ok, allora faccio così. No, un diametro di 8 quadretti. Sì, quindi lo piazzo qua, tutti. 4 e 4. Ah, puoi metterlo qua forse anche. Sì, ti do il coso rosso. Sì, grazie, rosso. Bravo. Ah, per il pertenso. Non mi ricordo che dado devo usare, scusate. No. Nessun dado. Attenta con le... Gli altri che si devono preoccupare. Esatto. Di chi dado usare. Sostanzialmente, quando tu lanci incantesimi, questo qui non è un incantesimo che fa danni, no? L'incantesimo serve per rompere il coglione. Scusate, se lo tolgo vi dà fastidio. No. Ok, poi glielo ridò, non è che vi tolgo il cibo. Dai, da dieta, quindi non può. Esatto. Allora, at the beginning of your round... Ah, including the round in cui ha castato. Quindi usano il tuo caster level come bonus attacco base, più 4 di forza, più 1 di size. Un po', sì. Quindi abbiamo 12... Sono bollenti. 16, 17. Più 17 di CMB. Vuoi aprire un attimino lì, tenere qualcosa che tira un attimo? Se avete così fatto. No, però devi tirare, il CMB. È vero, Danilo, devi tirare il CMB. Ah, lei deve farlo. Sì. Cos'è che devo tirare, scusa? Ne fa uno per tutti, insomma 17. Più? Un dado da 20. Contro il CMD degli altri. Non so, però... 12. Oh, bene, 29. È buono, è prossimo. È prossimo, grossissimo. Capito, però... Se poi avete freddo richiudo, solo per... Così, no? Poi li becco proprio tutti. Ma fatto sì qua no. No, però forse 29 deve essere completamente dentro l'area per essere... No, direi di no. Mi pare. No, beh, il concetto è che ti afferrano, quindi direi di no. Poi ho fatto 29, basta? Per, diciamo, cosa che fanno, li grapplano? Sì. Ma devi fare, cioè, rimangono così, tutti poi. Sì, basta. Sì, tutti presi. Bravo. Sì, basta, tutti basta. Sto lì. Sì! Dai, beh, non posso farle prove riuscire a scappare. Esatto. Tipo le bloccate lì per X turni. Ci sono i Black Tentacle. Quanti turni? I miei Black Tentacle. Davvero? Sì. Quanto dura round? Mi pare che duri round, però forse non è, non lo so. Sì, round. È dispellable anche. Quindi per 12... Brava, bella idea. Allora, io che sono C, sei C, ho un nome. Che io sono C, ascolta. Sei corvo. Non tira, allora, io mi devo avvicinare entro 30 piedi, che sono un sacco, devi muoverti un sacco se vuoi avvicinare entro 30 piedi. E non posso prendere poi, nessuno. Poi si muove 60 quello. Piedi, Volando. Meno armatura, però no, c'è la leggera. Okay. Beh, quindi, se vuole puoi mettersi qua. Esatto, un pochino più lontano. 12 quadretti, 60 piedi, giusto? 12? Mm. Io comunque 12, 3, pensavo 4, di 5, mettermi... 6, 7, 8, 9, 10, qua. Tipo qua. No, ma lei non deve essere... Deve essere entro 30 feet. E vola, quindi deve essere anche più vicino. Eh sì. Ah, già. Qua? Deve essere tipo... Deve essere entro, direi, 4 quadretti. Qua? Sì, ma non colpisci il ciccione. Con il ciccione? Così non sai entro i 4 quadretti. Ragazzi, sono 4 grosso, quadretti ma... vuol dire qua. Cioè, guarda che bella questa proporzione. Ma... Ah, ma sono lui? Una... No, io. E io c'ho il... Perché è un po' difficile da... Bravo. Scusate. Beh, che non ci disegneremo, però. Aspetta un attimo, scusa, sto... mi ricordo una cosa. Sì, devi andare lì, però ti muovi e basta se arrivi fino all'inizio. Anch'io l'ho fatto, quindi se ti metti di qua forse è meglio addirittura, perché tanto sì, sono trappolati. Per muovermi e colpire... Tu vedete una serie di scorpioni giganti avvolti da tentacoli neri che gli stringono stretti. Poi pensi che saltano fuori dalla sabbia, no? Quindi è bellissimo. Sì, è vero, no. Tu nella sabbia. Se io invece voglio muovermi e colpire, tipo se arrivassi qui... andrebbe bene muovermi e colpire, diciamo che non sei dentro il primo range increment, quindi non penso neanche sia caccia il colpo. Io mi muoverei e basta. Va bene, idem. Allora mi metto qua. Va bene, se faccio qua, se non c'è neanche più per raddoppiare. Vabbè, però un attentino, sono solo raddoppiato. Ho sbagliato a preparare un incantesimo familiar, perché ne ho preparati tre, in realtà ne posso preparare solo due. Lo cambio, posso cambiarlo? Beh, basta che non cambi la est che hai appena lanciato. No, quello no. Stai facendo? Io con le ali. Dai, che non c'era, che devo metterci le cose poi. Che merda, non sono cosa preparato. Tu puoi stare un quadretto. No. Ma vuoi preparare qua questo? Non appropriarti i quadretti altrui. Tu stai volando? No, mi hai detto... No. Ho fatto fly su lei, per forza. Cioè, in realtà ne ho due di fly, quindi in teoria... Vabbè. Però un'intelligenza trattino, non mi frega niente, ti lancio di tentacoli, direi. No. Ha un'intelligenza trattino? Direi. Della serie... Ok, del quindi vanno da quello grosso con l'ascia davanti a loro. Cioè, non ho un'ascia, ho una spada. La spada, sì, scusa. Ma perché sono ciccioli? Sono puntini, sono piccolo, vedi? Le ho, tipo... Se avessi fatto probabilmente l'occhio, avrei preso anche l'altro, proprio... Ti attacca con le chele. Sì, ma dice il come and get me, ragazzi. Anzi, prima delle chele, ragazzo, il come and get me. Usa il pugilione, quindi. Poi ho il come and get me. Fai sto cazzo di come and get me, non rompere allora. Mi lascia di mancato, critico. Mancato, così impari un po'. Scherzo, non è vero. Mi lascia di critico. Quant'è che sono, mi scuso? Vabbè, due che da fare. 29 colpito. Potresti confermare. 29 colpito. Ricorda sempre che hai un più uno. Ah, 30? Per si vedere più uno di Ace. Sì! Muri! Allora! Sto coming at you di merda! Che godore! Ho mandato completamente! Che godore cristallo! È top! Mi presti un altro due dei qua? Un altro di loro alleati! Mi presti un di quattro? Loro alleati! Mi presti un di quattro? Se ce l'hai. Questi non sono miei. Non per niente. Te lo voglio. Dai, dammi il ma non puoi lanciare due volte? Sì, dai, non mi far aprire. No. Faccio due volte. 5. 8. Più. Ma ne hai un altro? Sì, vabbè, ormai l'ho già tirato. 8 più. Cos'è? 28 per 2. 56 più 8. 64. 64 danni. Peccato che sia solo per due e non per tre. Nice. Posso? Adesso puoi attaccare. Posso? Ricorda che tu hai danni alla costituzione. Io no. Lei, lei. Colpisce una 30. Colpito. Devo fare il PS? Beh, inizia a pigliarti. 21. 21 danni. Ok. Fai il TS, tempra. 17 più X di... Se vuoi ti dico quanto sono. 14, no? Sì, dovrebbe essere così. Mi ricordo perché ti ha salvato la vita. Ah, sì? Sì. Sì. Superato, no? 31 superato? Sì. Ok. Se fanno danni a fuoco, dimmelo. Fa un altro attacco col pungiglio e gli dici, ma come? Un natural attack, può farne uno solo. No, perché era quella. Ah, la vita ah veramente? Con una swift action può fare un altro attacco col pungiglio. Ah, bello. Infatti, una peccato, volta la vita che non si ha... Ma non hai deciso di far fare doppio attacco ai boss? No. Quelli sono altri boss tipo che sono da soli o particolarmente boss. Questo qua è un... Giusto. Vedi, se qualcuno avesse... È un rompicazzi. Se non avesse come si... minaccia di critico. Vedo, si accomodi. Bel 20 natural. Si accomodi. Non c'è un figlio di C quando minaccia di critico. Peccato che qualcuno mi ha... Confermata. Ne ho fatto il coming at, altrimenti ci sono scopi in meno adesso. Sì, ma veramente, cioè, ma che cazzo, era già morto, era, eh? Era già morto, infatti, cioè... Vabbè, non era già morto perché era tanto seconda attacca. Beh, ma è un altro critico. Allora, che bel tiro che ho fatto. 6-6-5-2 sui D6. Complimenti. 12-17-2-19 più 26, 19 più 26 fa

Ma questo l'ha fatto il grosso. Ah, io pensavo l'avessi fatto il piccolo. Che esagerato. Stavo dicendo, minchia. Mi ha preso male. 10 di questi qui. Cioè, infatti mi sono detto, cazzo, cioè. Tre da 4 le caratteristiche per 10. Cioè, sono morto praticamente. Che pazzo. Detto. Uno va, questo qua va qua. E poi in attacco l'opportunità. No, fai 1, 2, 3, 4. Quanto si muove? Beh, ma dipende da C al massimo, no? Dal corvo e vola, e non fatta che vuol dire 40 anni. Quindi. Peccato, la devi smettere. Già oggi lo fa. Va bene, però sono tanto vicino a lui. Vabbè, 50 feet sono 10, no, 5, sono 10 quadretti. Vabbè, ce la fa. Sì, cioè va qua, sì, fa il giro semplicemente. Ok, questo si avvicina, fa un passo a metro e mezzo. E questo qua che cazzo fa poi? Ma compagnia. Minchia. Questo... Non sai dove metterlo. Ci... Eh sì, non so dove metterlo. Rimane lì. Oh, ma ci vola tanto. Boh, si avvicina a Dee che c'è spazio. Perché lei non, lui non può attaccarlo, quindi. Si muove e basta. E va... qui, tipo. Dico che... Ma minchia, lui deve anche evocare. Eh sì. Beh. Meno male che hai fatto bel tempo. Comunque. Sono problemi. Tu, allora, tu vieni colpito due volte e tu una. Vabbè, sola. Devi tirare. Pare. Col D20? Sì. Aspetta, io devo tirare. Ah, scusa. Secondo me lo devo. Allora, anche questi uno ti fa un full attack perché ha fatto solo il passamento. Iniziamo da lui. Secondo me lo devo. Anche questo fa il veleno. Aspetta. Il caminghetto giusto è una volta. Ah, una volta in tutto il round. Avevamo detto una volta per ogni personaggio attaccato. Sì, giusto, è vero. Cioè, sì, ci sta. giusto vai, altrimenti non lo prendi. Aspetta, quello è 3. Probabilmente non va bene anche tu. Insomma, no, è preso una cosa più forte, cioè non lo so. Comunque confermi 15 al c'ho un piccolo di 15. Fatto qualche anno fa 65, non era neanche il tuo round, quindi vediamo quanti ne fai adesso. 12 più 24 per colpito. Purtroppo niente critico. Niente critico. Che schifo. 1-1 e 28-30. Aspetta. Sì, no, però ho meno 2 e meno 1 danni, quindi sono 29. Segnati anche che hai. Qui nel totale segnati anche che meno 1, cioè quindi. Beh, più 0. Usalo. L'ho fatta, usalo. Non è messi malus, spero. Colpisce una... No. Se più di 20 è colpito. No. 6, 12, 18. Mancato. Contando che hai malus ad stress anche. Destrezza è meno 1, giusto? Sì. Quindi 19. Comunque mancato. Mancato. Contando anche il bonus del più 2. Ah, Ace gli dà più 1 comunque la CA, eh? Anzi, ah, sì, ma lui ha più 4 per il coming at me, giusto? È vero. Non più 2. Cioè, più 4, ma solo al primo attacco. Ho fatto così. Che senso? Fare. No, scusami. Ho il massimo del lui dà il bonus sul coming at me. Cioè, tu dai un bonus per colpire il coming at me. Sì, sì, in teoria sì. Però non so se volevamo. Ah, hanno detto che era più 4, mi pare, ma solo il primo attacco, quello su cui facevi il coming at me, no? Beh, sì, sì, beh, certo. Sì, se no, non avrebbe senso. Anche ti espone. Avrebbe senso, come, cioè. Anche farlo su tutti, su quante forti. Facciamo che era solo il primo. Ok, allora ti colpisce. Che fare. Vabbè, questo però non è così forte. Ah, mi sono di grabbarti col ciccione, vabbè. Ormai è tardi. Ma ti ho fatto solo gli attacchi di pungiglione? Sì. C'è anche le claws. Ego morto. Infatti, probabilmente era morto. Ma va. Ho tanto un PF. Totali. Ne aveva 140 e l'hai dimezzato. Con un round. E gli ho fatto solo il pungiglione. Due critici. E uno ha grittato per quello. Ho fatto 5-5-6-6. Però, boh, ti adoro i falli, ormai dimenticati. Se devi farli, falli, cioè, non è un problema. Ancora il turno dei cattivi, diciamo. Però, veramente, dai. Stavolta la calata. Ma, la prossima volta sto di poverine nemiche dietro la uccidere. Non so, se lo uccidete, però, mi scoccia adesso. Vabbè. Come si uccide? Perché gli vuoi fare le close? Fagliele! Dai, fagliele! No, il fatto è che se non lo uccide lui... Tanto se rischia di morire lo salvo io. Se non lo uccido io il coso, il ciccione uccide me, cioè, capito? Ok, prima close allora per te. Ahia. Yeah. Aspetta, fammi i danni. Ah, no, non fa niente. Colpito. Ahia. Yeah. Ho fatto uno, ma sono 150. Ah, ok. No. Otto più 13, 21 danni. Tu con di meno 19. Seconda claw. Più di 20 deve fare, no? No, più di 19. 8, 13, altri 21. Quindi vai a 40 PF. Madonna. 43 perché sono. E ora ti grabba. Mi sa che è meglio che mi faccio i fly. Oddio, lo grabba. Cazzo. 40. Se lo mette nelle... Se provo a mettere nelle... Mette nelle chiele. Io... Beh, però mi salvo degli attacchi dei nanetti, in teoria. Ok. Fa delle prove per combattere se sono grabbato? No. Mi spiace. Non c'è sta cosa. Tu dico un malus a tiro per colpire. Vabbè. Uguale. Quindi quello di prima... Ti mancava, sì. Ah. Sì, ma non ti conviene essere nelle grane, nelle piede, visto che non puoi fare attacchi. Tu non no, non dire. Puoi fare niente. Posso guidare. Posso fare l'urlo timorente. Quanto hai di... Di cosa? Escape artist. Tipo zero? No, forse avevo dato le gradi, però... Vediamo. Io liberating command, però. Ok, questi ti beccano. Cioè, uno ti becca. Scusa un attimo. Il pungiglione. Come pungiglione? Oh, scusa un piccolo. Ah, aspetta un secondo. Perché io ho questo spell che è un immediate action, un liberating command, però non credo faccia niente di che perché è un... cioè, di primo. Allora, se è grapplato, può fare un escape artist check e oh. Prende una prova uguale a twice il mio caster level. Ah, minchia. Massimo più 20. Ho meno 3 di escape artist. Più 20. Ho meno 3 di escape artist. Però di escape artist. E qual è la prova di escape artist per uscire dal grapple? Verso il suo CM di... Vediamo se c'ho scritto qua. Scrive tanto, sono bel meno 3. Bene. Utile. Prossimo grado, ricordami di mettere scrive tanto. Però non so se è nel range. Sì, close. Non è nel range, sai? E allora? Tu sei qua? E allora no. Io lo faccio dopo. Se ci sarà un dopo. Se ci sarà un dopo, te lo farò. Dicevo. Fai anch'io salvezza temper. Non è lo stesso che... 29. Direi di no. Bravo. Capito. Vuole farmi fare l'agro, vedi? Fatti lui. Devo farlo uguale all'agro. Basta. All'agro. Cinque danni. L'altro ti fa solo l'attacco di pungiglione perché sei mosso. E ti manca. Di merda. A parte il critico che ti ho fatto. Ho 40 PF, cioè per fortuna ci ho riuscito. Cioè, sono andato lì, l'hai caricati senza fare niente, cazzi tuoi. Cosa vuoi che faccia un barbaro? Vai e prepari l'azione. Aspetti che si avvicino, piuttosto. Anche è l'unico bersaglio, tra l'altro. Non ho calcolato il fatto che avessimo la metà dei PF, non sono abituato, capito? Allora... Ok, tocca a voi adesso. Ah no, scusa, c'era un attacco per Ellen. Colpisce una... Di chi è questo? Ah, mio. Ma dove l'hai messo, Mario? Ti ho dato sua mamma, poi tua mamma. Ah, ok. Colpisce una... Una 16, direi. No, 22. Bon. Tocca a voi. Tu evochi, no? Giusto? Sì. Per prima cosa mi avvicino. Di beh, 40... comunque come è il tuo turno compaiono. Sì, compaiono, allora va bene, faccio prima quello. Allora, li potevo evocare circa in questa zona. Sì, esatto. Li potevo evocare circa in questa zona, ma loro si possono muovere. Gli anchise, un di tre più uno. 4 anchise. Bravo. Ci vola? Di 3 più 4. Ci vola. Ci vola, scusa. Sì. Ok. Quindi sono huge. Huge è 3? Sì, sì. Quadretti. Quindi non posso farlo qui, no? Sì. sono dinosauri con... Ma ci arrivi fino lì con raggio, no? E li faccio muovere, ah, prendo un attacco di opportunità. Ah, tu ti fai muovere, dici. Cioè, lui, tu li fai muovere. Li faccio muovere, cioè, faccio comparire... Sì, però lì poi non hanno raggio verso... Cioè, vuoi stordire gli scorpioncini. Mm. Sì, volevo tenere occupati gli scorpioncini... Magari uno non riesce a arrivare dal grosso. Sì, Anche due. Cioè, non so, forse si devono muovere solo, scusate, adesso prendo gli anchise. Le sono grandi tanto, sono a 50 feet, quindi... Scusate, dovrei avere negli screenshot. Screenshot. Intanto che tu guardi gli anchise, facciamo magari qualcuno che è più rapido. Che sì. Tu devi baffare, fare le altre cose. Cosa vorresti fare? Vorrei, se ci arrivo, fargli un liberating command. Mm. Vediamo se ci arriva. È close. Quindi 25 più... Dimmi solo se c'è qualcosa che per cui non dovrebbero agire prima. Beh, io volevo provare a bloccare il boss, ma... Se non fa attacchi allora, d'opportunità. Facciamo che agisci tu che fai attacchi a distanza e sei, cioè, sei lì. Puoi subito colpire. Vai, inizia. Allora, anchise, ce l'ho. L'anchise. Ma fai allora. Per essere... Per vabbè, io colpisco il grande posto, visto che sono in alto, giusto? Sì, sì, sei anche dentro i 30 feet, quindi sono vicino al tiro per colpire i danni. Ok, ho visto che hai fatto ace, infatti. Ho una, sì, una è un attacco in più. Cosa fai? Bene, beh, deadly aim. Deadly aim era... E tu hai confati, sì, sì, sì. Beh, inizio col deadly aim comunque. Beh, fai tanto quello che fai. 11. Quanto, scusa? 11. Totale? Sì. Colpito. Sì. Non vuoi sapere quanto hai di già touch questo tizio? Va bene, chi se ne frega. 2. Sì, esatto. Non vuoi saperlo? No. Ha sparato. È un bel numero. C'è proprio 2, eh. Ma dai, veramente? Sì. No, sono 3 di 6. No, perché ne avevo guardato anch'io gli scorpioni, in realtà. Forse, cioè... Ti ricordavi sta cosa? Cioè, non le ricordo, però sai, no. Sono entro 30 piedi, quindi posso anche avere più uno. Quindi sono 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12 più 16 fa... 28 danni. Il primo colpo. Il secondo colpo. 19 naturale, quindi direi che l'ho colpito. Allora. Se non fai uno, colpisci sempre. Ok. Cioè. Ah no, 6, perché l'attacco sono più 0. 10. Comunque. Cioè, 11, 12, 13, 14, 15. Cioè, 15. Se non fai uno, cioè, va bene. 15 più 16 fa. 30. La fagli. Ma dove sono? Ah, 15 più 16, 31. Allora uno lo mando qua. Cosa? E sono il secondo, sì, poi. Terzo attacco. Sì, no, ti ricordo che c'è un'abilità carina con un grip point che potrebbe salvare il culo a Simone in questo momento. Io ho un'abilità carina col grip point. Sì, sì, che lui non vola. Però che volevo bannare. Sforza la mente, forza. Pensa. Non te la dico perché è soltanto il... Come cazzo si chiama? Quello che lo mando prone in pratica. Come si chiama? Vabbè, anche se non sai Two Shot Knockdown. Tipo Twin Shock Knocker. Ma lo faccio al l'hai colpito 2 volte. Quindi è il bonus. Ma guarda che sto colpendo quello grosso, eh. C'è un limite di taglia, non mi pare. Madonna. Cioè, no, qui c'è casino se è quello grosso o quello piccolo. Pensavo l'avessi preso 3, perché si era avvicinato di 1,5 metri. Ma io ho capito che stai colpendo quello grosso. Sì. Pensavo che lui l'avesse preso 3. No, lui l'ha preso 2. Guarda, me lo mangio. Ma comunque se è pro non vedo perché dovrebbe interrompere il grapple, cioè, non si caso. No. Solo che non fa gli attacchi, cioè, non ne fa quanto, ne fa solo uno. Cioè, in effetti ha nel senso. Ma io non posso fare azione, non posso colpire con la mano. Devi cercare di liberarti. E basta. E fa un'azione standard, quindi sì. Ok, però io per il Twin Shot Knockdown devo fare un tiro normale e spendere un grip. Allora, tu devi colpirlo 2 volte. Quando colpisci 2 volte puoi spendere un grip point e fai questa cosa e lo va prono, basta, fine. Ok, io posso anche farlo, ma poi da prono posso anche dargli il colpo di grazia? No. Come no? Vabbè. Conta che se lui è prono però gli si alza la CA tipo di più 4, quindi non devi più fare più di uno adesso. Vabbè, chi se ne frega. Però direi che diciamo che è impareggiabile questa cosa. Una come penna. Cosa. Penna. Ah, per il grit. Per il grit. Dai, terzo attacco, quindi è prono? Sì. No, te lo scendo. Cosa devo fare adesso? Io la provo a quella che dici tu di Escape Artist. Non so se ci arrivo, aspetta. Vabbè, vado avanti. Muovo del massimo velocità, 8 quadretti. Se ero al piede attaccato, ero al terzo. 5, 6. 14 più 5 l'ho preso, 8. Ok. E dammi la matita, scusa. Ah, scusa. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 più 16 fa 32, bravo. E ora faccio questo che è più 0, che cazzo faccio? Vabbè, basta che fai 6 sul dado, eh. 16 ho fatto, quindi l'ho preso. Cioè, non è difficile. Allora, quindi faccio 5, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 21, no, 18, 19, 20, 20 21, 20, più 16. 20. 21 più 16 fa 37, 37. Ne ho un altro perché ho l'ace. Ho l'ace, sì, ho l'ace. Devi farlo subito, però. E tanto lo faccio comunque col primo. No, perché si fanno prima gli attacchi col bonus più alto e poi col bonus. Beh, faccio comunque deadly aim, top. Ma deadly aim di farlo sempre per forza se farlo quasi il primo, eh. Appunto, faccio comunque il primo del sì, ma col 10. Nel senso, impara sta regola, cioè. Va bene, è comunque il 10, eh. 8 più 18 l'ho preso. Non è che ci... Cioè, non è, però... Cioè, sì. 12... Non sei ricordato. 14 più 16 fa 20. 14 più 16? Sì. 30. 30. Basta, finito gli attacchi. Scusa, sei fatto tipo 120 danni. No, no, non è morto. Oh, devo ucciderlo io perché così, aspetta, mi riprendo il grid point, sappiatelo. È conciato manino. Ecco, quindi lo uccido. Certo, io. Grazie a sto 64 danni su un critico di Kamenzeppi e 120 danni così. Perché ci piace più prono. Cioè, fai te. Fatto bene, fatti anche il clou. Cioè, devo fare i tre volte il clou. È vero. Posso anche fare due natural bike? Due natural no, perché sei a distanza. Ah, già, è vero. Questo che te. Tocca a me. Sì, sì, dai, dimmi allora, come si muovono? E li ho messi così. Okay, Cherry, questo si muove, non fa nient'altro. Va bene. E questi due. A qua, qui mi sono spostato qua e gli faccio Liberating Command. Va bene. Quindi puoi fare una prova di Escape Artist. Esatto. Però devo vedere com'è. Infatti. Tu già guardato? Aspetta. Escape Artist ce l'ho qua. Allora. Ah, ma sai che forse aspetta, l'ho messo. Puoi fare una prova? Ah, bravo. Guarda. Ce l'ho anche qua io. You can make Escape Artist check in place of a combat maneuver. Check to escape a grapple. Quindi contro la sua CMD. Uguale. Ce l'ho qua. Grapples CMD. Me lo scrivo. Più 20. Da 20 più 20. Meno 3 però. Sta mia perché lui somma meno 3. Sì. Quindi ah, io perché c'ha l'armatura pesante. Ah. E anche meno 1 la destrezza, quindi meno 4 adesso. Sì, se col... Quindi sommi solo 16. 17 più 16. Totale? 30... 33. Cazzo! Non basta. 33, peccato. Giusto, no, 33. Cazzo, peccato. Vabbè. Ci stava a tentare, più, tanto non più... Okay. Immediate action. Non è facile immediata. Immagino. Allora, sei lui... A tu, quando il tuo turno magari fai un Dimension Door, vattene da qui che questi idioti si vanno su Vanchise. Ok, su Vanchise. Io dovevi sposto, cioè dove posso sì, andare. Intelligenza trattina andare proprio su Vanchise. Senti, posso sapere una cosa, ma per come sono idioti, se gli faccio il ghiacciolo su di lui, cioè questi qui lo vanno a rompere? Ma non penso. No, no. Oh, io ci provo, senti, chi se ne frega. Ghiacciolo. Ci voglio provare. Sodoma! Sodoma gli fa un Ilomen. Bastardo. Cos'è? Come fa? Familiar Ilomen. Come fa? Scusa, non ce l'hai... Hai anche da mago? No. Però sono un Sansaran. Posso prendere degli incantesimi dalla lista della strega? Posso sì, dai. Ma cosa? devo fare Spell Resistance se ce l'ha. Non ce l'ha. Bene, allora devi fare tu 2 TS CD 24 Will. Aspetta, Will non è Mind Affecting questo. Scusa, qui. Scusa, non è Mind Affecting Ilomen. No, no, Ilomen non credo. Why no? Icy, aspetta, adesso guardo. Icy Prison però, perché è basato su Will, magari Mind Affecting. No, perché? Non lo so. No. Ilomen. Devi anche non no, Mind Affecting. Niente, okay. Cancella tutto. Faccio però lo faccio lo stesso, dai, il ghiacciolo. Comunque. Via. CD 24. Cosa c'è di loro? Silver Sack. Tirato un bel tiro alto. E vabbè. Passato. Per una volta volevo ubriacarmi del Silver Sack. 18 tirato. Ah. Comunque non era facile superasse, eh. Fatto bene. Bene, allora vado con gli Anchise. A 4 attacca 4 per affinità di numero. Per affinità. 10 più 20 più 15. Scusa, più una roba del genere comunque. Ok. 3 dadi da 6. Qualcuno da 6? Sì. Offense 3 dadi 6 più 14. 8. Sono grazie, 8 più 14 22 più stun. CD 25. Dove era Dazza? Sì, Dazza. No, stun. Passata. Ok. Vado con a 1 sul 2. Quanti danni hai fatto, scusa? 22. Su chi se la scende adesso? Ah. Con a 1 sul numero 2. Ah. 12 più 20, più 15 27. No, scusa, più 16 28. Colpito di 6 più 4 10 più 1 11 più 14 25. Okay, quindi 25 danni. Che è tempra TS? Sì, sì. TS tempra. Quant'era di C? 24 adesso? 25. 25, ok, questo l'hai gazzato. Ah, bene. A, a 2, no, solo per un round. Ah, a 2 contro il 3, 10 più 16, 26 colpito, mi sa. Uh-huh. E sono 10 più, sminchia, che tiro, 16 più ulteriori 16, 32. Ok. No, più ulteriori, scusa, 30. Stannato anche questo. Bene. E stop. Ok. Ho fatto qualcosa, sì, familiar, ho fatto qualcosa, non può fare niente, stop. Ok, io Eleni e Baka anche. Vai, vai, tanto io sono tentativo per liberare. Vabbè, fai subito il tuo tiro, vedi se ti liberi, dai. Urca! 18 più... Secondo me non ce la fai comunque. Madonna. Cazzo, è più 22, 40. No, ma aspetta, sì, più 40 totale. Ah, preciso. No, forse no, ci non basta. 49, eh. Vabbè, è impossibile. Certo che fa 20. È forte. Infatti, è forte. Ricordi il prossimo il round di fare il TS. Sì. Ma giusto. Posso fare il grido? Quello Tie Fang Roll? È una move action? Sì, l'ho preso anche come move action. Sì. No, quello c'hai. Perché puoi fare intimidire con una move action al massimo. Ma non puoi fare quella d'aria con una move action. Quello con move action è comunque è intanglato, lo stesso. Prendi un meno 2 a un po' di cose. Perché l'ICI, anche se fallisce. Aspetta che ci vuole il tangled esattamente cosa fa. Beh, comunque gli faccio un po' intimidire lo stesso. Meno 2 al tiro per colpire. Ah, meno 2 al tiro per colpire. Meno 4 alla destrezza, quindi prossimo quindi meno 2 alla CMD. Però comunque non basta. È vero, se lui che provano non prende dei bonus. Provano... Anche per. Non mi pare proprio, eh. Sicuramente prenderà meno 9, però sai. Ma che poi uno scorpione, ma come cacchio fa a essere prono? È zampetta in su, no? Sì, esatto, non si sa come mai i proiettili hanno fatto finire a gambe all'aria. Meno 4 giri per colpire, più 4 contro quelli alla distanza, quindi avevo ricordato giusto. Meno 4 contro... Niente, no. Boh. Ok, gli faccio un po' intimidire comunque... Normale, ok, contro di lui. Sì. Quindi 25 più 17. Aspetta che qua siamo di solito dovresti avere un po' di meno. Almeno prendi almeno un po' di meno, un po' di malus. Quant'è che hai fatto totale? Sono 37, no, 35 e 7, 42. 42? Sì. Sì, cazzo, tirando 18, 17, 18, 17, cioè... Ha scritto sullo schermo del master. Le... 10 più l'HD, ah, è HD, non il CR. Mica quello è più difficile in realtà. Comunque, 10 più HD più la saggezza, quindi è 34 più 0. Quanto hai fatto? 40. Ok, è demoralizzato. Ma no, ma tanto è un mind affecting, mind affecting effect. No, niente. Niente, non funziona quanto dico, mi spiace. Niente, non ti guido lo stesso. Non lo so, pensavo di usare Dimension Door. Sì, così questi qui vanno su sto qua. E tu vai dietro, giusto? Sì. Va bene, dai. E picchi. E picchio. Se vuoi. Ma precauzioni posso comunque... Non ho fatto niente. Beh, ah no, sì, perché... A meno che tu non abbia... Dimension Door. Cioè, che non puoi fare più niente. Ah, è vero. Se hai qualcosa di Swift, ti vuoi lanciare... No, proprio you can take no action. No, dopo. Allora. Però dico, se vuoi fare qualcosa prima. Ok. Tocca a loro, no? Ah, io devo fare il TS? La swingerà. No, no, no, devi farlo nel tuo round. Quindi farlo adesso? No, nel prossimo. Cioè, questo qua ah, è okay, quello di prima durante l'attacco. Quindi succede così. Allora, quelli per liberarsi. Giusto. C'ha prima i piccolini. Allora, quelli per liberarsi tiro un po'. No, di potrebbero dentro. Attaccare il mio anchilosauro a uno. No, cucciolo, allontanati. Esatto, ma io no, scherzavo. Vai. Sono in 4, 5. Mai. 5. Poi decido di andare a fare di questi. C'è MD 27, no? Se fossi liberato ti giuro che sì. Dovrei massacrare questo scorpione. La mia cosa faccio, faccio un full attack anche se è morto. Esatto. Gli faccio 5 critici di fila. Lui è fuffi. È fuffi. L'ha no. Ah, chi? Anchilosauro? Sì. 27, era giusto? No. Ah, perché il tuo amico... 3 si liberano. No! Ho tirato un po' di tiri alti. Vai, disponili. Botta, non ti lo rimetto. Possono attaccare nessuno, tutti circondati. Ma scusa, basta, c'è di questo bell'anchilosauro qua? Ah, giusto, attacca l'anchilosauro. Ma no, non tiri danni per l'anchilosauro, però. Non tiri danni. Okay. Quanti VFA? E te lo dico subito, ne ha diversi. Aspetta. Dai, si muovono, attaccano l'anchilosauro. L'anchilosauro è 75 PF. Beh, allora lo attacco. Vai. 14 ha? 22. Comunque ne ha più di 75 perché anche un Gwen Sam. Mancato, mancato. E colpito. Uno lo colpisce col pungiglione. Comunque ha molto di più di 75 piatti. Deve fare un TS tempra. Ah. Di merda. Statistics. Si prende innanzitutto ben 7 danni. Ah. Aspetta che me li segni. Vabbè, dai. Dov'è? Non lo trovo. Ah, grazie. Anchise 28. Ok, quello grosso, siccome deve rialzarsi con una move action, no? Non lo fa, in teoria può anche lo fare, mi pare. Prende un po' di mouse, ma fa tutti gli attacchi. E lo uccide, definitivamente. L'istinto però, è alzarsi. Infatti, però infatti, cioè, stupido. Però, non so, sei stupido come lo tira a combattere da terra, no? Non lo so se sei abbassato, cioè non pensi mi attaccheranno mentre mi alzo, pensi mi rimetto come sono più terribile. Sì, ma lui è conciato male, quindi potrebbe lottare disperatamente adesso. Non lo so, a me sembra che sia un sereno. Però non... Anch'io come devo alzarsi, sì, in effetti. Tanto hai comunque il coming... Ah, niente, scusa, sei grappato. Esatto. Purtroppo il coming out non vale sul grappolo. Mi dispiace. Mm. Tanto se mi libero. Beh, comunque fa un attacco solo, anche se. Perché? Ah, no, è vero, si sta giù. Fa due. C'ha un bel meno 4 più il malus del prono, però lui non c'ha cino. E poi gliela planta. Io ho 22 di CA. Beh, lui se sta giù lo rilascia dal grappolo, no? Perché sennò dovrebbe mantenere l'operazione stand. Non ho capito. E lo rigrappa. Cioè, deve lasciarmi il però fa il coming at me, giusto? In questo modo. Mm-mm. Io lo faccio qua. Beh, diciamo che lui comunque fa la cosa più logica, cioè. Logica, quello che mi sembra anche l'istinto, cioè stai morendo, non pensi a rialzarti, pensi a menar giù, cioè basta. Quindi rilascia il grapple con la free action e ti attacca. Fai il come and get me. Uno. No! Mi piace. Purtroppo ha finito le cartucce. Che sfiga. Però c'è vicino anche una che si è trasportata. Ah, è vero. E gli anchise che sono grossi. Mm? Che sono più grossi del puntino. Direi. Però gli anchise, boh, non sono cover. E tu me li hai fatto malissimo, tra l'altro. Mm. Li hai fatto solo un colpo. Esatto. Che non ci arrivavano ad attaccare il fatto. Ah, solo... no, vero, ce ne ho fatto tante. Solo uno. Quindi diciamo che inizia ad attaccare quelli grossi. Oddio, potrebbe anche... Oddio, in effetti, perché... Sono i miei istinti di sopravvivenza. Sì. Mi sa che... Però no, ho detto che non si rialzava, giusto? Hai detto così. Allora. Puoi farlo rialzare e fuggire, se vuoi. Sì, mi sa che si alza e scappa perché, cioè, non sta a morire, non sa che morirebbe. No, prendete anche l'opportunità da lei e dall'anchise, giusto? Ci prova lo stesso. Da me? Perché da me? Cioè, sa che restando lì, no. Capisce che restando lì morirebbe di sicuro. Potrebbe al massimo portare qualcuno con sé, ma, cioè, muore comunque, no? Certo, certo. È tipo a 20 PF per quello, no? Tacchi d'opportunità da anchise, dai. Va bene, vai. A te l'onore. Poverino, ma io non avevo un'abilità, cioè avevo tipo una che mi aggiungeva altri bonus. No, lo vogliamo sgozzare, eh? Non avevo una free action che aggiungeva altri bonus. Ne avevo una che era più 20 al tiro per colpire, poi ne avevo un'altra che avevo usato l'altra volta che era tipo più 2. Ma dovevi, non lo so. Per colpire dice Arcane Strike, sì, è critico per come c'ha lei anche. Quando fa un colpo critico può decidere, insomma. Non sta dicendo quello, lei sta dicendo Arcane Strike. Che fa una swift action e più 2 ai danni al prossimo turno. Sì, però lo devi fare prima. Ah, ok, bene. No. Quello fa l'inizio del gatto. Comunque buona idea, perché poteva essere. Non l'ho preso. Però, non lo so. Cioè, guarda che c'è un sacco di malus, eh. Vabbè, un sacco no, però è intanglato. Scusa. Ma non dà malus diretti alla CA, solo la destrezza? Ho fatto 11, no, queste sono cadute, 14 più 5, 19. Mancato. Mancato. Ah, 20, c'è ancora Anchise? 20. Ah, fiancheggia. 20. Mancato. Più c'è Anchise. Mancato. Anchise che somma 18. Mancato. Eh sì. Beh, era forte questo, eh. Non so se avete capito. Sì. Che c'è che? 13 più 18. 15. 13 più, questi non contano. 13 più. Sì, esatto, non contano. L'ho colpito, credo, perché ho fatto 31. Sì, ho colpito. 30 colpiti. Quindi... Vado. 31? Sì, ho colpito. Anche dai, perché ha una mano sulla CA lui. Perfetto, 14 più un 3 dadi a 6. Dai, non può ucciderlo l'Anchisa, affanculo. Cazzo, per un pelo. Perché ho fatto tipo, cos'è, 5 più... 19 danni ho fatto. Beh, non è che ne ha proprio 20, adesso. Per dire. Vediamo qua con... Se mi ha lasciato in culo. Falla comunque sta prova se non è immune a stand. Io rincorro. Ah, giusto. Rincorro. La passa ampiamente la cosa così. Ok. Si stanca. Si stanca. Avrà pochissimi, pochissimi PF. Gli dico il fare. Che ma senti, ma questo Anchise qui non gli può fare l'attacco d'opportunità? No, perché è basso. Perché è cover. Ah. È molto leggero. Bravo. Ah, due quadrati di 10. Ah, davvero? Io voglio fare l'attacco d'opportunità. Perché lui ha Space 15, Reach 15. Ah, huge. Ah, però sì. Cioè, ma non ha, dico, a cover. No, a cover. Ecco, quindi proprio non lo può fare, non è che ha una può missione. Farlo, ah. Con 25. Allora lo fa. Ah, un più 4. E anche l'altro, allora? Beh, no. Beh, sì, invece sì. È mezzo, anche se è mezzo lungo. 8, mancato. Ce ne sono i quadretti lì, per cui può passare. A 2. Aspetta un attimo, che devo fare il calcolo. Mancati. Mancato. 6 e 8 tirato. Sì, no, infatti comunque moriva con quel colpo. Sì, ti voleva 6 PF. Cioè, è morto con Anchise? Sì. Grande Anchise. È tutto, era tutto già mal ridotto perché ha colpo un pistola negli occhi, robe del genere. No. Sta, si rialza, cerca di affaticare, mi arriva una codata in testa dell'anchilosauro. Bellissimo. E si accascia a terra svenuto. Bravo. Non è proprio morto morto. Vedi Sodoma, impara da lui. Quindi è morto? È svenuto, perché a meno costituzione. Cioè, non è proprio a meno di meno costituzione. Quindi Fuffi l'ha ucciso. È, adesso però sono ancora gli altri ettimi. Ti tocca? A loro? No. Tocca a te. Ti tocca a loro. Tocca anche agli altri quelli là. Quelli là che non ho ancora fatto. Sono stannati quei due lì. Ah, già, è vero, due sono stannati. Ah, questo, due dovevano diciamo fare il tiro salvezza. Altri scorpioni, degli altri scorpioni riuscite a liberarli senza difficoltà, senza sprecare risorse. Come giusto che sia, non aggiungo niente al CR. Non devo fare i tiri io? Sì, tu fai... Comunque devi fare. Lo faccio. E fai che c'è tre round. Due round, perché... Cioè, vanno giù con due colpi questi. Ah, perché tu c'hai il veleno. Sono più addoppiati, vanno giù anche... Tu li uccidi con un colpo, tranquillo proprio. Che figo. Loro con due, no. Anche con uno, se fanno dei denti. Oh! Dai, quello non conta. Peccato, non conta. Quindi fai che ci mettete tre round massimo. Ti ho tre di 20? Di insieme. Ma è già il primo, poi il secondo. Sì, giusto, siamo qua. Superato. Superato. 20. Cazzo. Non l'ho superato. Quindi, aspetta, i danni. Vai. Allora, questo è forza. Due danni alla forza. Madonna. Aspetta. Aspetta che se li segna. Mi sento tra l'altro. Segnati, ok. 12 la costituzione. Vai la costituzione. No, destrezza. 4. Giulio, non ci sono lì. Di 6. No, tirano di 4. Ah, ok. E 4 la costituzione. Allora, io ho 40 PF, aspetta.

No, scusami, se invece io... Cioè, qualcuno ha tipo... Ma poi c'è, passano due round scusami, almeno, se, prima che vado se lui turno. La teletrasporta e io gli faccio invisibility, lui è lui comunque passano due round, ora che va torna, quindi il problema non si pone, perché a quel punto dovrei ormai. Perché sono morto, probabilmente. Lo fa 18? Devi fare veramente 18? Eh sì, perché ha un po' di malus. No. Scelti ha messo, Non è facile tirare un 18. Non è una vera sessione se il barbaro non rischia di morire. Cosa facciamo? Tu puoi evocare più Bralani? No, perché non hai preparato più. No, perché. Io buildo Aggro. Non posso. Non... Perché no? Perché Summon Monster 6 ce n'è uno solo, anzi, fammelo togliere. Cioè, ne ho preparato solo uno. Magari c'è qualcos'altro che cura. Però no, non credo. Aspetta, io avevo preso un'abilità che però non so se funziona, cioè no, se l'avevo poi presa, non mi ricordo cosa mi avevi detto, che era tra le possibilità di scelta tra le abilità della Genasi. Però alcuni erano contro la le mie caratteristiche la Magus, quindi avevo preso una che non mi ricordo, quella più pensativa. Sì, quella lì. Più 4 iniziativa. Più 5 qualcosa. Esatto. E se no, poi ero decisa tra due che non mi ricordo se era più 2 a guarire oppure era più 2 a. Poi sto guardando lì il check. Non so quanto tempo richieda questo threat poison, ma se uno ha alto IAL può fare una prova di IAL. No. Ma nessuno ha alto IAL. Che deve fare contro la DC del veleno che è un po' difficile. IAL che cos'è che somma? Saggezza. Ma non c'è. Non hai dato grazie, sì, ma devi fare tipo 40 sul dado. Cioè. Ah, guarda 3 dadi da 8 più 6 curano i bralani. Beh. Non è male comunque. Castel level 6 sono i bralani. E mi pare di sì. Adesso controllo, ma... Okay, mi pareva proprio di sì. Sì. Castel level 6. 3 di 8 più 6. È l'unione che fa la forza. Che cura 500 danni con... In 2 round? No, in 10. Beh, però... 3 di 8 più 6, mi prende... 3 di 8 quant'è la media? 4,5, 9... 13,5, 13... Più 6... Sì, è più di 12. Boh, secondo me può starci, cioè... Fallirà, però io devo tirare alto sul dato... Devo tirare... 3. Tiro? 3 o più. 50-50. Ma 50 in effetti. Un po' meno perché c'è il 18. Perché anch'ise non... Gli anch'ise non curano. Non fanno più Sirius. Sì, più Sirius. Vuoi tirare con questo male? No, no. Un dato vale l'altro. Mi sembra la soluzione io ora. No, non c'hai una roba tipo l'orco che resti in piedi senza... No, quella è un'abilità di razza, non ce l'ha purtroppo. Agoth ce l'aveva. Agoth ce l'aveva. Così la sacrificavi tipo un PF e questa me ne impiede anche con zero. Sì, sarebbe dato per uscire dal lira. Certo. Se uso un punto... Cioè lui tra 6 PF esce dal lira, giusto? No, 4 PF sono morto perché sono a zero. Appunto, esce dal lira e muore. Sì. Perché perdi PF temporanei. Cioè io in lira posso rimanere... 27 round. Tu hai preso il PF della scheda, cioè quella Raging quando l'hai fatto. Sì, sì. Sì, ma sono 143 alla fine, non è che siano. Sono 286 raddoppiati. In IRA. Io con la riserva arcana non posso aiutarlo in niente. Cazzo facciamo? E fai la cura lì e poi si tira il dado. Ma c'è già stato un 50-50 con Teo, Cioè, nel senso, proprio un'altra possibilità. Non vedo molte opzioni. Cioè. L'ira ti dà un bonus alla costituzione? Sì, più 6. Tesesco, la lira sono morto perché il meno 6 che ho di costituzione è. Non so, esatto, dargli qualcosa che gli dà un bonus alla costituzione. Tipo, tu non puoi castargli tipo. Bull, cosa lì. Non ce l'ho. Che cazzo possiamo fare? Qualche altra invocazione, magari a Restoration. No, non credo. Oggetti tutti, buono, no. Vediamo. Lo sai bene, se no no. Guardo, do un'occhiata velocissima a quello di quinto. Non penso. No. Le scorro solo. Se lo sapresti. Sì, infatti. Babau, non credo i demoni, no, per l'anima, niente. No. No. E ti serve se non qualcosa. Magari di 18 più, pensate. Problema per lui. Mi sa che sì, dobbiamo 15% fare 15% alla fine, non è poco, dai. Aspetta, solo l'ultima cosa? Non è qualcosa che poi ti puoi fare, ho tirato un 4. Aspetta, aspetta. Stai fermo! Ho tirato un 2. No. L'uno, teniamo l'1. Oddio. No, no. 2. Ehi, secondo adesso tutti quelli bassi, Dai! Ci diverta torturarci. Dai, però veloci, ci stiamo impantanando. Facciamo con i bralani, che cosa vi devo dire, ragazzi? Quanti piace Mikui? E vediamo. Sarà al prossimo round, si scoprirà. Adesso faccio il giro di Anchise, poi li dismisso. Giusto posso, no? Vabbè, facciamo il giro di Anchise. Ma a parte che se evochi si tolgono automaticamente. Appunto. Sì, vabbè, dismisso. Sarebbe una standard action. Ah. Quello dico. Ok. Allora... Non posso far niente, perché il tuo problema è dentro di te. A 4, attacca 4. 16. Ma lascia stare, quelli lì scappano, li ammazzate. Ok, ok. Poi contro il primo turno... Allora Bralani. Però ecco, è il secondo turno, io ho fallito il secondo TS, giusto? Momento. Quindi ho 4 PF. Dai, cura gli sti... Ah, proprio siamo già direttamente al turno successivo? Sì, è il secondo turno. Che ansia. Cos'è che ti fai? Non c'è qualche bonus. Più di 12. Non posso dargli qualche bonus ITS tipo guidance? Non ce l'ho, non l'ho preparato. No, qualcosa che da bonus non ce l'ha. Tu, non mi ricordo tutti i. Ce l'ho, ma le cose però si basano sull'ira e lui non è affetto. Cioè l'incantesimo rage. No. BF perdi se vai fuori da lì un sacco. Ne ho 107. 107 ne ho, 3 per 12, tipo una 40, buonissimo. Sono se, ho 143 PF in Iga, ne ho 107 quando sono quello all'Iga. Beh, Davide, non me la prendo con te se fai un tiro basso, cioè. No, non è colpa mia, infatti. E niente, si tiro sti 3 di 8. Mi fanno almeno 6 sui di 8. Per dargli il 50% di vita? Sì. Se no, molto mia. No, non vale. Vabbè, dai, non è così difficile, cioè. Dieci hai fatto, non ti vergogni. Ti ho detto che non era tutto colpa tua, ma almeno impegnati un minimo. Aspetta che mi aggiungo questi 10 PF. Adesso cosa deve fare? Cioè, poverino, ha 14 PF. Ah no, comunque va bene, perché ne ha ancora 4 lui. Sì. Quindi va bene comunque. Devi farne almeno 8. Cioè devi fare... Sì, dai, era qualsiasi tiro andava bene, aspetta, dai. Io lo fa 18. Però minchia, comunque... 50-50. Lo fa 50-50. Come 50-50? 50-50 sopravvive. Un po' di più perché c'è il 15%. Vabbè, più il tiro salvezza, che contiamo già per fallito, ovviamente. Sì, uno proprio. Minchia, sei abbonata in uno oggi, eh. 2-1 cattivi, cioè, nel momento sbagliato. E vediamo sto dado che si tira... Io mi pago la corta avviso, eh. Sta attento, eh. Non devo fare. Quello di CPF, beh, 14 ne ho. 14, ah, quindi se faccio 2 danni va bene. Tipo, sì, come hanno detto, 3, da 3 in su non va bene. Minimo esce da 3. Cazzo, questo è l'ho di Danilo, proprio non l'ho di. No, guarda che ci sta spiegando. Cosa, avere Agorot, mica tanto. 2. Beh. Aspetta. Quindi quanti PF mi rimangono? Boh, 0. Comunque... Ma... Quattro. No, 2. 2 PF? Cioè, tiro dopo però, eh. Sì. Mica finito, vero? Certo. Quindi però... 2 PF. E adesso quanto lo fa sul dado, però? Perché se basta ancora? 19. Vado col Bralani? Sì, vai col Bralani. Ma sei morto allora, comunque. Adesso anche se esci, se non lo superi, sei morto. Secondo me sì. Quanti PF hai fatto? 4. 5 con questo. Ma perché sei morto se non lo superi? Perché ho un PF, ho 2 PF e ho tipo di costruzione. Ah no, non è vero, ogni volta è così. Ogni volta è 50-50.

No. Allora. Mi sa che io sono nove. Cosa prendi di fuoco? Le sessioni ormai sono così. Un'ora di battaglia e due ore per salvare la vita. Barba. Vabbè, l'altra volta era per me, dai. Per sì, anche per me. Però anche per lui, Sì. No, tu sempre. Vabbè, io sei fisso, poi altre vuote. Cioè, lei recupera 55 PS ogni round, so fare questa cosa. A tutto il gruppo. A tutto il gruppo? Minchia. Ma possiamo fare il prossimo combattimento? Come cazzo fai? Una figata. Però devo usare dei spell, cioè non è che farlo costantemente. Cioè. Certo, però. Ah, ma non è Twiddler, peccato. In pratica c'è una speciale musica bardica che fa... In pratica puoi spendere tipo 5 round per dare fast regeneration, 5, no? Mm-hmm. E per ogni 5 round che spendi... Cioè, no, scusa, devi spendere un round, però ogni round che spendi prendere Generation 5. Puoi spendere fino a massimo di 5, una roba del genere, no? Lei può spendere, cioè, ne spende così tanti perché usa un incantesimo che in pratica li spende al posto suo, anziché, cioè, c'è un incantesimo da bardo che usa lui round al posto del bardo e quindi non li spreca lei, li spreca l'incantesimo, no? E in pratica fa sta cosa. Bellissimo. E poi c'è una roba, non mi ricordo come avevo fatto, c'era un talento che faceva per altri 10 PF in più extra. Non lo so, scritto qua, non mi ricordo. Ho scritto l'effetto. 55 PF a tutto il gruppo. Così fai, cioè, tutti assieme. Cioè, lei usa 5 round di musica bardica e recupera 55 PF. Sì, ho capito. Ah, a tutto il gruppo. Fa questo. Quindi lo fa adesso. Sì. Inizia a cantare. In teoria, avevo pensato che sarebbe successo dopo questa cosa. Avrei dovuto cercare una canzone da mettere. Ah. Ma l'avevo anche trovato su Spotify alla fine. Vabbè, la faccio ascoltare la prossima volta. Ok, comunque. Okay. All'inizio di Enya. Poemia del Signore degli Anelli. Sì, esatto. Oppure l'inizio di Bar Song di Blind Guardian, insomma. E anche voi vi sentite tutti ristorati, no? Cioè, vi recuperate anche voi i PF che non avete perso. Adesso sono i PF. Sì, infatti, grazie. Infatti. Ok, mentre canta, visto che è una filancia, mantenere, no, giusto? Usa... ce l'ha questo, se non ce l'ha direi che ce l'ha, perché non ha senso. Sì, non glielo ho messo, non direi che... cioè, sì. In qualche modo, cioè... usa un restoration, quant'è che recuperava? Tipo 2 danni, una roba del genere. Non è andato a 4, se si guarda. 20 a un 4, eh. Ma l'essere o normale? È l'essere per forza. Pazzettino, sì. Restoration less. Comunque non c'è la mago, sai. Restoration. Ma non è un mago, dai. No, dicevo per me. Guarda, c'è la barba. Non da 4. Ma c'è la barba. Ah, no. Ce l'ha il paladino. Allora non ce l'ha. Non è peccato un Sansara, ma dovrebbe avere una bacchetta comunque. Direi. O il suo ordine conferisce particolari capacità. One of the spells ability. Dalla 4 of temporary ability damage, però non era drain magari. No, non era damage. Non ho risposto perché. Però domani all'8 lo vedo, quindi aspetta, c'è una cosa carina. Vabbè, massimo c'è una bacchetta. Sì. Dai, recuperiamo sti PF. Cioè, sti danni. Veniti a un 4, eh. 4. Bravo. Simbolico. Positivo. Hai visto che è servito il 4? Beh, meno male. Questa è la paura che ti gioco aggro, in realtà. Non è la vita del personaggio. Gli farò un ultimo PS, no? Però vabbè, ormai si salvo, penso. Quanto ho? Scusami, solo meno 2. Ma quindi forse adesso c'è 16 e 14, 30. Hai tirato 14? Sì, 14. Come cosa? C'ho 15, se non sbaglio. No, c'è 14 normale con tutto il malo costruzione che hai, c'è meno, quindi l'hai fallito. No, sono in mira. Perché 14 in mira. Ho 16 in mira adesso, perché ho 18... Perché lì è la più 6 la costruzione. Ah, sì, forse era un altro. Ho 14. Ma guarda cosa c'è scritto sulla scheda. Sì, sì. C'è scritto 16. C'è scritto 18 costruzione. No, la, guarda il tiro salvezza, c'è scritto. Ah, cosa? Scusami. Fortitude 14. Allora. Ah, sì, sì, no, 28. Ah, no, scusa, pensavo fosse costruzione. No, ce l'ho. Solo uno più. Molto bene. Basta. Quanti vuoi farne ancora? Basta, è finito. Sparisci dopo 6 round. Dopo 6 danni alla forza. Tagliamo mentre. Posso fare una prova di conoscenze per riconoscere queste abilità? Sì. Locali. Locali. 27. Ok. Sai che di recente, prima che Junker Shek ordisse il suo colpo di stato, gli era stata affidata la missione di, diciamo, distruggere un ordine monastico di cantrici che professava il aspetta, tutto qua. Tipo la ricerca della canzone. Le cantrici dall'abito bianco, no? Ah. Oh. Che grazie. Sono una serie di donne che dedicavano la propria vita allo studio e all'affinamento del canto curatore. Un particolare tipo di canto. Certo. Comunque bastavano 15. No, perfetto. Ho capito. Il suo ordine è stato ritenuto sacrilego dall'impero di Smeraldo, certo, per il semplice motivo perché, cioè, si temeva che potesse in qualche modo conquistare effetti di potere o di consenso popolare, in qualche modo, cioè, della popolazione. Comunque, cioè, con la scusa che era ritenuto sacrilego, in pratica si è ordinato che venissero tutte sterminate. E a guidare le missioni di sterminio era proprio Junker Shek. Ho capito. Tuttavia lui era un mero esecutore, non era... Certo, un fanatico. Desiderava... Ovvio. Riesco a capire che è una cantrice, quindi. Certo. Interessante, guardo Junker Shek e... Come, cioè, mentre lei canta, lui estrae la katana e gliela punta contro. Io lo vedo. Io mi sono ripreso. E allora io vado da Junker Shek. Io mi sono ripreso. Cioè, è già passato sì, questo. Sì, sì, certo. Tu sei sempre di giro, tra l'altro. Questo è interessante, sono... Non ho conoscenze locali, purtroppo non so la storia, però... Probabilmente sì, comunque, lui non parla, le punta solo la katana, cioè, praticamente alla gola. E io vado... Io sono comunque ancora in Ivre, col falchio in mano. Ma te è una prova di sense motive. Per sé, avevo tipo 19. Cos'è? Chi ce l'ha? Sense io comunque mi avvicino a... Ce l'ho, però non so quanto. Vabbè, almeno. Io glielo dato 30. Ho fatto 30. 30. Sì, io mi avvicino comunque e mi metto tra Junker Shek e lei. Lo sguardo di Junker Shek sia come al solito impassibile e non lasci trasparire nulla. Noti un leggero tremito nella sua mano, come se fosse indeciso, preoccupato. Turbato, su più che altro. Allora io vado davanti a Corinne. Scusa, con 20 lo capisco, solo per... appena impercettibile. No, con 20 okay, non è sufficiente. Perfetto. Beh, io vado davanti a Corinne, vado lì fino in volo. Insomma, sto volando, vabbè. E mi metto tra Corinne. Vabbè, lui già capisce qua. Mi metto vicino a Corinne. Mi punti la pistola, se vuoi. No, mettiamo queste cose. Scusa, Io sposto... Io sposto Corinne e la metto lì. No, io mi metto tra Corinne. Io ti disapprovo. Non è giusto, sei un modello. Posso fare tipo... metto tra Corinne e dico, non lo fare. Non voglio posso iniziare un combattimento adesso. Cioè, proprio anche perché ci sono 2500 non inizia il combattimento. No, questo muore istantaneamente. Lui dice una parola, ma a un certo punto Kai Shek rinfodera la katana con un gesto... abiti che faccio mai così no esatto così e se ne e si volte e se ne va senza dire niente questa è bella sorta. Vabbè, mi giro verso Corinne e la ringrazio, dico grazie anche se è tempo anche tu fede al fatto grazie ora Corinne. Non c'è più bisogno di tenere queste capacità segrete. Davvero interessante. Beh, comunque le dico che d'ora in poi saranno molto utili in battaglia ancora. Dico che d'ora in poi lei sarà sotto la mia protezione. Sicuramente. E se ha bisogno può anche venire a dormire. Non è un grazie, grazie a me, per caso. Io volevo, loro no. Tuttavia, oltre a... No, aspetta, in effetti io che non se va, in teoria succede una cosa. Però questo evento qua è estemporaneo, me l'ha fatto dimenticare. Ok. Vabbè, intanto io lo dico a Corinne. Rifodera la spada. Mm? E dice, abbiamo cose più importanti a cui pensare. Tipo che guarda, loro... cioè loro non erano proprio sulla nave, cioè loro erano sulla nave, no, metti loro erano sulla nave. Il nano, uno dei Folgebrand, dice: ci credo bene che abbiamo altre cose a cui pensare a quella cantrice. La Sratite è scomparsa.